Buona serata a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, che ritorna a voi dopo un mercoledì così dove si è disperso, insomma, come molti di voi, insomma, nelle due settimane più o meno tra il 25 e il 1 maggio. E quindi insomma, tornato in diretta, saluto intanto il compagno di viaggio Pop, buonasera. E 451 che torna con una trasmissione che chiude un po' una faccenda annosa, perché da qualche settimana la stiamo trattando, ovvero California Uberalles, titolo non casuale, ma lo sto dicendo da 3 settimane a questa parte, lo dirò anche questa sera, anche perché abbiamo voluto inaugurare una serie di trasmissioni sul post-punk californiano, per non far quadrare un cerchio assolutamente, anzi tutt'altro, un cerchio che non si è ancora chiuso e probabilmente non si chiuderà, sia perché sono musiche che vivono in maniera strabiliante anche l'odiernità, l'attualità, quello che poi interessa a 451 frammenti sonori, questa sera è la mia compagnia di Max Macchia, e anche perché di fatto poi alcune dei frangenti che abbiamo trattato, come quello di questa sera dell'Alternative Tentacles, non è affatto chiuso, anzi tutt'altro, escono ancora delle uscite piuttosto indipendenti ancora, quindi omaggio al grande Jello Biafra, che uno potrebbe pensare, insomma, soltanto legato al punk. Alternative Tentacles, sentirete che sì, è punk, tanto punk, ma è anche tutt'altro. Sentirete dei suoni che vanno tanto dall'elettronica quanto all'ambire certo industrial, sia storico, sia anche momenti puramente noise, addirittura con alcune puntate tiratissime, che questa sera, insomma, sentiremo per alcuni momenti. Non sarà, insomma, dedicata chiaramente soltanto alle faccende estreme di Alternative Tentacles la trasmissione, ma appunto a quel disegno incredibile ancora appunto in divenire, creato nel 1979 in quel di San Francisco da Jello Biafra, che all'epoca formava i Dead Kennedys, celeberrima band del punk che si stava trasformando in hardcore, quindi anche qua una filiazione e un suono che genera altri suoni, sempre quasi rincorrendo anche un'attitudine politica aperta, oltre che artistica, un linguaggio poi che si fa diretto tante volte e che altre volte invece e prende in più le mosse da momenti di puro surrealismo sonoro, come sentiremo, e ad altri momenti invece più cacofonici, più quindi di impatto rumorista. E se si deve trattare, insomma, faccenda dedicata e che tratta appunto l'Alternative Tentacles, non si può che non partire appunto da Jello Biafra, che poi dà il titolo a tutte e quattro le trasmissioni dedicate alla California post-punk, ovvero California Uberalles. Non sentiremo quel pezzo, beh, ovviamente, insomma, troppo telefonata la faccenda, e andremo invece a trovare un Jello Biafra magari poco conosciuto, e in questo caso con un grande come Kate LeBlanc, giro dei Mafia, quindi Mark Stewart, quindi quel dub che si faceva industrial, quel rumorismo che poi diventerà una specie di solida base per buona parte del cyberpunk. E andiamo appunto a trovare proprio un momento quasi di esplosione di quel fenomeno che appunto è stato definito cyberpunk, tanto per appunto come dire allargare a mani tese una faccenda che riguarda il punk, post punk, abbiamo detto il rumorismo, il rock più aperto, insomma, che sfugge a qualsiasi categoria, che forse anche la rifugge, in questo senso, un altro atteggiamento politico di Jello Biafra e dell'intera Alternative Tentacles. Partiamo quindi con Jello Biafra Biafra e il grande Cate LeBlanc, proprio fuoriuscito, in libera uscita anzi per un momento dai Mafia all'epoca, Messager o Sponsor, Object, Subject, e anche qua insomma c'è tutto un gioco di parole per dichiarare la propria autonomia, beh forse il termine anche che si addice di più per quanto riguarda il percorso non soltanto di Jello Biafra ma dell'intera Alternative Tentangles. We interrupt this program with a special bulletin. This territory is now under martial law. All constitutional rights have been suspended. Stay in your homes. Do not attempt to contact loved ones, insurance agents, or attorneys. Shut up. Do not attempt to think, or depression may occur. Stay in your homes. Curfew is at 7 p.m. sharp after work. Anyone caught outside the gates of their subdivision zones after curfew will be shot. Remain calm. Do not panic. Your neighborhood watch officer will be by to collect urine samples in the morning. Anyone interfering with the collection of urine samples will be shot. Gather anywhere without permission. of the U.S. of ABS. TV is the reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Communism means un-American, and apartheid is a new headache remedy. Drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Television, television, the drug of the nation, drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Sicuramente avrete riconosciuto uno dei forse degli inni del momento del sì, prima dicevamo cyberpunk, del rock che si mischiava con l'hip hop, ma facendolo andava anche tanto a incocciare con una certa industrial che si stava trasformando e stava diventando altro. Ricordiamo ad esempio dischi dei Consolidated, tanto per citare qualche cosa, ma perché non ricordare appunto proprio Beatnik, che abbiamo sentito con Television, e con un remix che qua viene fatto proprio dai personaggi che abbiamo citato prima, ovvero Mafia, c'è Mark Stewart di mezzo, Gary Clail che è dentro Tuckhead, personaggio insomma eccezionale anch'egli, dentro l'orbita di Andrea Sherwood, che proprio remixa il tutto con i due, appunto con Mark Stewart e Gary Gray. Questa Television, beh, è uno dei pezzi più strepitosi della fine degli anni Ottanta, per una fusione incredibile, come dicevo prima, di attitudini tutte e tre, forse, tra hip hop, industrial e cyberpunk, decisamente dure d'impatto, insomma, diretto. D'altronde poi Alternative Tentacles come abbiamo sentito anche prima con Kate LeBlanc, anche lui del giro On Un Sound stava sperimentando proprio intorno alla fine degli anni Ottanta, proprio quel suono anche così portato a un eccesso e a un testosteronico, potremmo dire, effetto, se non per una grande anche ironia, che quindi stempera insomma l'impatto aggressivo di Ministri. Forse più che ironia bisognerebbe parlare di atteggiamenti satirici, se non addirittura sardonici, verso il potere. Ministri che circolarono dentro il giro Alternative Tentacles con produzioni soprattutto con collaborazioni con Jello Biafra, storicissimo, dentro Kenzo, il disco insomma che li ha resi di fatto famosi Ministri, ma parallelamente, come poi spesso si sono fatti insomma protagonisti di progetti a latere, sia Ol Jorsen che Paul Berker che William Rieflin facevano parte anche di un progetto che, per quanto effimero, insomma, è appestato anche abbastanza duramente questo percorso, questo viatico così libertario politicamente, ma anche con delle sonorità che per quanto non disdegnassero insomma un impatto piuttosto diretto, non perdevano poi in realtà in esperimento, come d'altronde poi dimostrato anche con Beatnik, Michael Franti, che poi dopo questo progetto Beatniks, che insomma ve lo dico, trovate assolutamente il primissimo disco eccezionale, l'unico stampato tra l'altro come Beatnik, proprio per Alternative Tentacles. Poi dopo Michael Franti con Spearhead si darà un hip hop piuttosto jazzato, fino ad arrivare a una forma di cantautorato black come Michael Franti, con ancora tanto da dire, anzi forse è proprio questo, e con anche uno sviluppo poi della sua poetica anche in termini, se vogliamo, così più chiari, più divulgativi, meno sicuramente furiosi di Beatnik, come lui ama insomma definire quel periodo, il periodo suo industrial, il suo periodo radicale, musicale, anche non che abbia perso in radicalità, seppure insomma i linguaggi poi sicuramente sono diventati di maggiore fruibilità, forse perdendo quello spirito, non tanto forse lo spirito, forse quell'attitudine più sperimentale, ma sicuramente insomma ancora di grande insomma valore e determinazione anche appunto linguistica e politica. E con Beatnik, Michael Franti, con Kate LeBlanc, con il remix appunto su Beatnik eseguito dai Mafia insieme a Mark Stewart, e appunto citando Ministri e progetti collaterali di Ol Jorsen, Paul Barker, William Rieflin, dentro Alternative Tentacles insieme a Jello Biafra, tra l'altro The Last Temptation of Raid, un disco anch'esso della fine degli anni 80, 1990, la uscita per registrazioni sono di qualche mese prima. Andiamo a trovare appunto un suono che si fa anche così decisamente strombazzante, volendo appunto diventa una sorta di inno sardonico al contropotere di Lard, una sorta di industrial hardcore con tanto di spernacchiamento e militarista, che viene appunto così declassato o, se vogliamo, deturnato in una chiave appunto di matrice industrial assurdista, industrial rockish. Fate un po' voi insomma dentro questo grande calderone che fu appunto il progetto di Lard, con appunto anche il protagonista Jello Biafra. for all my kind of selfish loving deeds. Huh? Well, you just wait, they'll find you dead. And when they do, they'll hook you in the A-S-E-P-A, you mangy mutt. And they're coming to take me away. Ha-ha, they're coming to take me away. Ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the funny bar where I'm too beautiful all the time. And I'll be happy to see them. pezzo scritto da un certo Napoleone Bonaparte, così perlomeno si faceva chiamare, un personaggio anche lui del giro di Alternative Tentacles, e Jerry Samuels, tra l'altro anche con un altro pseudonimo, che fa capire insomma quanto poi fossero veramente iconoclasti e anche divertenti poi dentro il loro essere, il loro disprezzare ogni forma di potere. Napoleone XIV, quindi chiaro riferimento insomma a un'altra faccenda tutta francese, e non solo, insomma quel XIV ci fa insomma la crasi forse storica concettuale di due personaggi insomma che di potere ne hanno avuto fin troppo, veramente in maniera così allarmante per tutto il mondo, e ancora insomma aleggiano perlomeno per quanto riguarda certi atteggiamenti, fenomeni insomma di napoleonismo insomma ancora così decantati, perlomeno che vorrebbero essere tali insomma. Poi tante volte si va adesso un ridicolo, ma è un ridicolo che comunque ancora come dire gestisce il mondo nonostante insomma tanti attacchi rivoluzionari e anche appunto quelle delle Alternative Tentacles, con un linguaggio insomma piuttosto anche articolato, pur dentro insomma un suono che si fa, l'avete sentito insomma, piuttosto delirante, piuttosto anche sardonico appunto, come dicevo prima. E se appunto di rivoluzioni, di rivoluzionari si tratta, trattando Alternative Tentacles, non si può non trattare uno dei personaggi politici più così discussi degli anni 90, anche più di riferimento per quanto riguarda la radicalità rivoluzionaria, non soltanto quella afroamericana. Parliamo di Mumia Boujamal, incarcerato negli anni '80 per veramente motivi piuttosto così pelosi, se potremmo definirli così, però andatevi a cercare insomma un po' di notizie se non le sapete, e diventa un po' la bandiera insomma di un certo modo di vedere insomma la politica, ripeto, non soltanto afroamericana rivoluzionaria, ma appunto tout court radicale. E quindi la liberazione di Mumia Boujamal diventa una bandiera politica non soltanto per Alternative Tentacles, ma per buona parte insomma del movimento antagonista, anche perché no quello mondiale, anche appunto qua in Italia si è sentito molto la figura di Mumia Boujamal. E Giallo Biafra, gli viene in mente una faccenda che accosta radicalità politica a radicalità musicale, ovvero Mumia Boujamal tramite Spoken Word, che tra l'altro è una delle potremmo dire tecniche, ma insomma, è molto limitativo definirla tale. Diciamo che lo Spoken Word è una forma di poetry e soprattutto politica che si trova in tanti dischi di Giallo Biafra, ma anche di altri artisti, come appunto anche Mumia Boujamal, stampato in un paio di compilazioni appunto vari spoken word. E dove la voce, il suono della voce e la declamazione di questo assume un valore politico, sonoro e linguistico e di segno politico anche piuttosto forte. In questo caso c'è una collaborazione appunto di spoken word per alcuni pezzi e in altri una collaborazione musicale con un progetto radicalissimo come Man is the Bastard. Poi sentiremo anche quello che sarà il proseguo di Man is the Bastard, una delle formazioni più di riferimento per quanto riguarda il noise americano degli anni 90. Man is the Bastard portano a una saturazione il linguaggio dell'hardcore, appunto poi sprofondando in quello che sarà il progetto Bastard Noise, e quindi appunto quella sorta di Moloch incredibile di noise noise che verrà preso di riferimento da tutti i noiser americani, una porta, buona parte di questi negli anni zero. Mumia Bujamal, appunto, con Man is the Bastard, che elaborano appunto lo spoken word di Mumia, e ne fanno veramente un'operazione di grande valore, non soltanto insomma musicale, artistico, ma anche politico, appunto, di come i linguaggi possono essere elaborati in maniera diretta e sperimentale, assumendo anche un valore di grande impatto, appunto, come dicevo, politico. Sentiamo inizialmente appunto Mumia e poi ci tufferemo dentro appunto le travisamenti e le grandi insomma esplorazioni e hardcore noise, hardcore veramente sublimato attraverso, o superato forse attraverso un impatto devastante, che poi appunto avrà il momento così massimo di azzeramento con Bastard Noise. Daydreaming, weeping, but mostly waiting in the room the size of your bathroom. Now imagine doing all those things, but mostly waiting for the rest of your life. Imagine waiting, waiting, waiting to die. I don't have to imagine. I live in one of those rooms, like about 3,000 other men and women in 38 states across the United States. It's called Death Row. I call it hell. Welcome to hell. Each of the states which have death rows have a different system for their execution cases, varying from the relatively open to the severely restrictive. Some states, like California and Texas, allow their execution cases work, education, and/or religious service opportunities for out-of-cell time up to 8 hours a day. Pennsylvania locks its execution cases down 23 hours a day, 5 days a week, 24 hours the other 2 days. At the risk of quoting Mephistopheles, I repeat, welcome to hell. A hell erected and maintained by human governments and blessed by black robe judges. A hell which allows you to see your loved ones, but not to touch them. A hell situated in America's boondocks, hundreds of miles away from most families, a white rural hell where most of the cage captives are black and urban. It is the American way of death. Contrary to what one might suppose, this hell is the easiest one to enter in a generally hellish criminal justice system. Why? Because unlike any other case, those deemed potential capital cases are severely restricted during the jury selection phase, as any juror who admits opposition to the death penalty is immediately and automatically removed, leaving only those who are fervent death penalty supporters in the pool of eligible jurors. When it is argued that to exclude those who oppose death and to include only those who supported death was fundamentally unfair, as the latter were more conviction-prone, the United States Supreme Court, in a case titled Lockhart versus McCree, said such a claim was of no constitutional significance. Once upon a time, politicians promised jobs and benefits to constituents, like a chicken in every pot to get elected. It was a surefire vote-getter. No longer. Today, the lowest level politico up to the president use another surefire gimmick to guarantee victory. Death. Promise death, and the election is yours. Guaranteed. Vraiment. A vote for hell in the land of liberty with its over 1 million prisoners is the ticket to victory. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Better than a thousand hollow verses is one verse that broke my windshield and reached in and clawed me. No one will believe me, 'cause the rest of the audience is ripped to shreds. But the hand of claw was dripping red. You see, there's a factory up the river with an electric fence, no sign by the road, deep in the wilderness by the river. It's owned by Del Monte. You remember Del Monte, their logo's out of date. Canned fruit, canned salmon, canned people advertise on TV. Here in the factory, they tried to perfect bigger, tastier salmon by genetic engineering. It didn't work. Little slimy chemicals slipped down the river and flowed into the ocean, where little fishies ate it and turned into weird shaped slime. Came back into Fort Bragg. Lots of tourists, even in the fall, because in late summer you got the state fair. A slimy green claw comes up through the dock. People run away and climbing through the hole is a protege of Roger Corman. He photographs this mutant, says, "I'll make you a star. Bring me all your friends and I'll make a movie out of you. On location. Give me 5 minutes to get my camera, please." Yachts are on fire, they throw gasoline, but it does no good. rising out of the water, clawing, clawing, screaming, beefhead American jocks who can't get into their pickup truck in time and drive away. Red, dripping, county fair. The French fries are no longer yellow. Brace thyself for the humanoids of the deep. Lewis Leakey, eat your heart out. We're here to stay. E dopo Mumia Bujamal insieme a Men Is Bastard, e come avevo detto al continuo di Men Is Bastard, ovvero Bastard Noise, il gruppo che insomma si formerà, anzi il progetto che continuerà Men Is Bastard, accentuando appunto quel rumorismo che appunto tocca anche Alternative Tentacles, tanto per far non quadrare il cerchio, tanto per veramente rigettare qualsiasi categoria che insomma anche legata al punk si voglia dare ad Alternative Tentacles. In questo senso Gelo Biafra è sempre stato veramente decisamente sperimentale come approccio, un approccio sempre imprendibile, seppur sempre direttissimo. Questa è una grande forza che forse l'associa anche a quella di Mark Stewart, e si può permettere Mark Stewart insomma di girare come Gelo Biafra, facendo magari la P38, non essendo assolutamente né vetero né nostalgico, ma avendo questa proiezione poi incredibile per un linguaggio che veramente vive e torna a essere immediatamente verde nel momento in cui appunto si instaura direttamente un rapporto con l'ascoltatore. Questo può riguardare sia chiaramente il discorso dal vivo, ma anche quell'ascolto che non è passivo, poi a ben vedere per i due, visto che abbiamo fatto il collegamento con Gelo Biafra e Mark Stewart, quindi che si instaura anche in un ascolto nervoso che scuola.